Oh, sulle note di Amanda Lear in maniera veramente poco seria accolgo Gabriele Vasquez. Benvenuto Gabriele. Sì, una vergogna, io non sono abituato a questo trattamento. Oggi Faster non c'è, tra l'altro credo che non ci stia neanche ascoltando, quindi possiamo fare veramente come ci pare. Però io adesso, perché so che tu ti senti a disagio se non parli sulla tua base, te esatto, la metto, infatti, te la metto poi da lì. Sto limitando le parole fino a che non sento la base. Attento. Ci siamo forse, eh? Sì, dai. Allora, per questa puntata avevamo pensato a qualcosa di leggermente diverso dal solito, visto che non c'è Sandro e lui ha il copyright dei film della settimana. Avevamo pensato con Sara di fare un abbinamento molto banale, cioè musica e cinema, e va bene, fin qui sono buoni tutti, direi. Ecco. Però di farlo in una maniera particolare, cioè di farlo male, che non è che non sono bravi tutti. No, di farlo seguendo un'idea, seguendo un criterio, insomma. Non seguendo un criterio. Proponendoci di seguire un criterio e poi totalmente dimenticando totalmente. Dimenticandocelo, sì. No, seguendo un criterio, diciamo, che non sia... chiaramente si parte dal gusto personale, cioè roba che ci piace sostanzialmente, sì. Ma anche qualcosa che in grado di dire delle cose interessanti sulla maniera in cui il cinema interagisce con la musica, insomma, momenti importanti nella storia del cinema in cui c'è rientrata la musica. E per questo io, così, te lo dico all'improvviso perché... Così, dammele. Esatto, perché noi abbiamo in realtà pianificato tutto, chiaramente. No, volevo partire con Be My Baby. Sì. Volevo partire perché è un momento molto particolare quello di Be My Baby al cinema. Chiaramente non è un brano fatto per un film. È un brano che esisteva, preesisteva al film, era un brano di classifica degli anni 60, che viene utilizzato per l'appunto in Mean Streets di Martin Scorsese, molti anni dopo. E la vera particolarità, il motivo per cui volevamo parlarne, volevamo inserire, anzi iniziare con questo, è che quel momento, cioè il momento in cui all'inizio di Mean Streets parte Be My Baby per fare da colonna sonora dei titoli di testa, cioè una brevissima sequenza, scusate, in cui Harvey Keitel, che è il protagonista, si sveglia d'improvviso come se fosse stato tempestato da terribili incubi, si guarda allo specchio e si rimette a dormire. Questa brevissima sequenza iniziale, e partono i titoli di testa sulle note di Be My Baby. E la cosa importante è che era la prima volta in assoluto, questo è il primo film veramente personale per il cinema che abbia ricevuto una grossa distribuzione di Martin Scorsese, ed è la prima volta nel cinema in cui viene utilizzato un brano pop per una colonna sonora. Cioè non era mai successo. Prima, quando, ne so, Elvis faceva i suoi film e cantava, erano canzoni che venivano presentate in quei film, cioè fatte per il film. Anche i musical erano canzoni per quella storia, che nascevano in quella maniera. Mentre invece utilizzare una canzone che era già famosa per altri motivi in un film è un copyright di Martin Scorsese, cioè l'ha inventato lui. E la prima volta in cui accade, appunto, è con Be My Baby del Ronette. Oh, Oh, questa è la tua scelta, Gabriele. Sì, esatto, Be My Baby delle Ronette, perché sta in Mean Streets. La prima volta che un brano pop viene utilizzato in una colonna sonora lo inventa Martino Scorsese. Si chiama proprio Martino. C'è un documentario Martino di nome? C'è un documentario che lui ha fatto sui suoi genitori, e i genitori lo chiamano Martino. È proprio così, italiano al 100%, anche perché i genitori sono cresciuti a New York, ma biologicamente italiani al 100%, figli di italiani, certo. Quindi anche lui è italiano al 100%. E quindi Martino, lui famoso, tra l'altro, si potrebbe parlare un'ora del rapporto che c'ha lui con la musica, che è incredibile. Lui era il regista di seconda unità, cioè che vuol dire quello, il regista che si smazza le cose noiose, mentre il regista numero uno fa le cose fiche, lui faceva le cose noiose, del film di Woodstock. Il secondo, cioè sì. Lui stava a Woodstock, ha fatto tutte le riprese di Woodstock, lui, e non era nessuno chiaramente all'epoca. E appunto, no, questo poi è curioso, che nel suo primo film subito cominci con la musica rock, insomma, comunque con la musica che andava di classifica, che uno che poi l'ha seguita sempre in tutta la sua carriera. Ed è forte perché in questo momento in cui va questa canzone nel film, c'è tutto, cioè è pazzesco come i registi alle volte nella prima scena del primo film che porta al cinema c'era tutto quello che avrebbe fatto dopo, perché il personaggio di Keitel dice una frase, c'è come una voce fuori campo che dice: i peccati non si scontano in chiesa ma per strada e nelle case, lo sanno tutti e il resto sono stronzate. E in questo c'è tutto il cinema di Scorsese, di gente che fa delle cose terribili e la paga pagandola col sangue, non religiosamente. Veramente straordinario. Fantastico. Invece, procedendo per decenni, visto che noi, anche se non sembra un criterio, ce lo siamo dato, se un altro cronologico, straordinario. Non ce l'avremo mai arrivare al giorno dei nostri, però. E concordi, penso, nel citare la trilogia del dollaro di Sergio Leone. Per forza. Dalla quale tu hai scelto, per un pugno di dollari, che è il primo, chiaramente, del 1964. Dai, nasce lo spaghetti western, che poi non era che un plagio, no, dei film. Sì, era un modo di rifare un po' gli americani, chiaramente, perché in questo primo non risulta Sergio Leone, risulta... Arca miseria, non me lo ricordo mai, lo pseudonimo americano. Arca miseria, guarda, incredibile. Bob Robertson. Ecco. Risulta Bob Robertson, ma tutti col nome finto, anche Morricone, quello di Morricone non me lo ricorderò mai, però anche Morricone c'aveva il nome finto americano in questo primo film. E esilarante, perché appunto volevano scimmiottare gli americani, ma come dicevi tu, facendo Yojimbo, cioè il film di Akira Kurosawa, La sfida del samurai, che praticamente per un pugno di dollari è il remake italiano, è il remake italiano di un film giapponese che finge di essere americano. Geniale, una cosa a suo modo geniale. Diventato famoso anche per le musiche, ma in realtà poi, sai, in molti pensano che... cioè, c'è questa cosa che ti trae in inganno, che le musiche di Morricone sono fighe, no? Sono fighissime. Cioè, che te le sentiresti anche a prescindere dal film. Per cui questa cosa ti trae in inganno e sembra che questi film sono diventati... anzi, le musiche di questi film sono diventate molto famose perché erano belle. Fine. In realtà no, cioè sono belle, però sono belle come altre. La cosa che le ha fatte diventare veramente famose è il fatto che Sergio Leone per la prima volta abbina in una maniera veramente che non faceva nessuno musica e film. Cioè, per esempio, vi ricorderete che spesso nei suoi film un piccolo micro segmento di musica, magari quattro note, si sentono in corrispondenza di un movimento o di uno sguardo o di una battuta particolare, e entra la musica che si capisce che è fatta proprio apposta. Perché lui era l'unico che fa questa cosa tipica degli italiani quando fanno cinema, che fanno cose a modo proprio, cioè non seguono quello che fanno gli altri, ma è una cosa veramente tipica. Un po' come noi. Geniali, ovviamente, no? Come noi. Sì, sì, sì. Era l'unico che faceva fare prima le musiche, cioè come prima cosa Morricone fa la musica. Poi si va a girare dopo con la registrazione e giriamo che gli attori sentono la musica. È una cosa che non faceva nessuno. Solitamente funziona che tu hai finito il film, più o meno hai un montaggio parziale, lo fai vedere al compositore, il compositore dice: guarda, c'avevo in mente queste cose, tu dici ok, e alla fine il compositore registra vedendo il film, così per fare le cose, magari se vuoi proprio farlo in sincrono, alcuni se ne fregano, i filmacci se ne fregano e appiccicano la musica così, però diciamo che le persone precise fanno in questa maniera. Però appunto Sergio Leone aveva ribaltato tutto, potendosi permettere queste cose, potendosi permettere di girare per la musica, e questo gli dà tutto un altro senso, chiaramente. Certo. Straordinario. Poi correggimi se sbaglio, perché qua il guru sei tu, ricordiamo. E qui nasce Clint Eastwood, praticamente, che fino allora non era nessuno, anzi era stato preso perché costava poco in realtà, esatto. No? Perché lui voleva Coburn, no? Sì, esatto, esatto, costava esatto. troppo, e quindi prendiamo datemi il Combur dei poveri. Dei poveri, esatto. Quindi in realtà poi viene consacrato qui. Sì, esatto, consacrato. In realtà lui aveva fatto delle altre cose che noi non conosciamo. Lui aveva fatto Rawhide, che è una serie TV western, per l'appunto, che era il motivo per cui l'aveva visto Sergio Leone, che comunque una cosettina western l'aveva già fatto, che era questa serie TV che noi in realtà Rawhide la conosciamo solamente perché è quell'unica canzone country che i Blues Brothers sanno fare. Quando vanno in quel locale country, sanno fare solo una cosa country, è la sigla di Rawhide, e fanno quella. Esatto. E, insomma, c'era Clint Eastwood in Rawhide. Ma io recentemente, per una serie di cose incredibili, mi sono trovato a dover vedere tutta la saga del Mostro della Laguna, i film horror anni 50, Mostro della Laguna Nera, che sono tre film, forse quattro, non mi ricordo più. Comunque, in uno di questi, in un ruolo minuscolo, c'è Clint Eastwood, giovanissimo, che fa un dottore, sedicente quasi, esatto, un sedicente biologo col camice bianco, totalmente implausibile. E appunto è un ruolo di pochissimi secondi, meno di un minuto. Per cui sì, appunto, non era niente, non era nessuno, e l'ha totalmente inventato Sergio Leone, poi come duro in realtà, perché poi lui faceva tutt'altro. Ruoli diversi, sì. Sì, sì, esatto, inventandosi poi una serie di gesti, cioè per esempio quello molto famoso in questo film in cui lui si passa il sigaro da destra a sinistra senza usare le mani, solamente con la bocca. Cioè inventandosi queste piccole chicche che in realtà davano un sacco di personalità al personaggio. Vabbè, a questo punto direi di ascoltarci. Possiamo andare. Ennio Morricone. Beh, insomma, il fischio di Morricone, direi che... Sì, infatti, stavo cercando, come si chiama... Cercavi il fischiatore? Sì, lui aveva un fischiatore molto noto, io ovviamente, ma non mi ricordo, però insomma era bravissimo, e... Ed è incredibile, cioè è incredibile il fischio quando viene utilizzato come strumento, la parte della differenza che ha col fischio delle persone normali, ma la precisione del... Cioè, le volte è più preciso di una tromba o di un sax, spesso tremolano come suono, mentre invece il fischio va dritto, veramente... Io che sono un ignorante di musica, con i brani di Morricone poi l'ho scoperto come strumento musicale, pazzesco. Fantastico. Oh, altro brano scelto d'accordo, posso dire? Esatto, esatto, di comune accordo. Di comune accordo, Easy Rider, film del 69, diretto e interpretato da Hopper, se non sbaglio ha pure vinto al Festival di Cannes, no? Sì. Giusto? Del 69, sì. Manifesto un po' della controcultura alternativa, no? La fuga per la libertà. La libertà. La libertà. Da questa qui avevamo scelto di comune accordo. Avevamo scelto di mettere Fortunate Son. Esatto, Fortunate Son, che è quella della canzone dei Creedence Clearwater Revival, che è una chiaramente è una delle tante di Easy Rider, perché non ci poteva essere all'epoca controcultura senza la colonna sonora della controcultura, che era il rock. E Fortunate Son è un brano strano, perché poi nella storia dell'audiovisivo, quindi allargando dal solo cinema, è tornata spessissimo, è tornata molte volte con molti significati diversi. Addirittura chi quest'anno ha giocato a BioShock Infinite, che è un videogioco straordinario, pieno di spunti di unione tra audio e visivo, tra sonoro e visivo, sa che anche lì ritorna in una chiave pazzesca che sarebbe troppo lungo spiegare qui, però qui è il momento in cui viene consacrata al cinema, in un film che non solo, come ricordava Sara, ha vinto il Festival di Cannes, quindi ha ricevuto come una benedizione ufficiale, che il Festival di Cannes ti dà un'investitura di quello che è il, tra virgolette, il mondo accademico, istituzionale, tutto quanto, ma soprattutto arrivava dopo alcuni altri film di motociclette, cioè di questi film in cui era molto presente la cultura esatto, i chopperoni, le strade, scene in cui si guida, perché vabbè, in maniera anche banale la motocicletta veniva identificata con la libertà, con un certo tipo appunto di controcultura, di fregarsene delle cose. All'inizio di Slider buttano gli orologi, cioè una serie di cose molto simboliche, ma già negli anni 50 Brando faceva il selvaggio, che era appunto lui vestito di pelle con un cappellaccio, ed era già la controcultura, e girava in moto, è una cosa molto caratterizzata il fatto che girasse in moto con le bande di motociclette. Dicevo, Easy Rider arriva dopo tutta questa serie di film di motociclette, arriva nel momento perfetto, nel 69, con la trama perfetta, gli attori perfetti, le musiche giuste. Primissimo, cioè, Jack Nicholson anche qui, no? Uno dei primissimi Jack Nicholson, che in realtà fino a quello ha fatto tutta una serie di film terribili di serie Z, cioè, i film con le rane volanti, faceva cose terribili, e invece qui fa un ruolo serissimo, chiaramente. E appunto arrivava facendo quello che avevano fatto prima di lui altri film, ma in maniera perfetta per colpire, e ha un successo tale, ed è talmente nuovo, talmente devastante, talmente arriva anche in un momento in cui il cinema era in crisi pazzesca, perché era data la televisione in America, e gli spettatori erano sempre meno, che di fatto è il film, non si può mai dire se è proprio stato questo, però diciamo che viene comunemente identificato come il film che ha cambiato la storia del cinema, perché in quel momento, forse questo film è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, tutta una generazione di produttori che erano disperati, perché nessun film faceva più denaro, erano totalmente disperati, vedono in questi film qua, questi film fatti da ragazzi che parlano di libertà, di cose lasciate a ruota libera, vedono una miniera d'oro, ecco perché questo film fa un sacco di soldi, e cominciano a investire su Hopper, Fonda, e poi Coppola, Scorsese, Michael Cimino, Brian De Palma, tutti questi che fino a quel momento già avevano lavorato, ma appunto facevano i film, anche Coppola faceva i film Marci Horror con Roger Corman, cominciano ad avere delle possibilità. Dico, allora girate un film. Coppola dice, guarda, io ho il libro di Mario Puzo, il padrino, potrebbe venire bene, e fanno quello. Scorsese fa Mean Streets, poi fa Taxi Driver, poi arriva Brian De Palma a fare i thriller, che fino a quel momento aveva fatto altri film completamente diversi. Insomma, comincia a crearsi tutta un'altra generazione che fa tutto un altro tipo di film con carta bianca, perché i produttori sanno che è proprio il fatto che questi sono estremi, che sono violenti, che c'è appunto la controcultura, c'è una certa libertà nel modo di fare film che piace al pubblico, e quindi glieli fanno fare. Questi ragazzini sono pieni di soldi, cioè comunque gli danno un sacco di soldi per fare film, che era una cosa che solitamente non capitava. Certo. Solitamente il sistema hollywoodiano funzionava: io produttore ti dico che devi fare Via col vento, e lo fai come dico io, i soldi sono miei, magari sono tanti, ma sono miei, li gestisco io, tu lavori per me. Più o meno funzionava così il sistema, fino a che non diventi un'autorità e tutto quanto. Mentre invece sono giovani, pieni di soldi, totalmente liberi, anzi più fanno le cose estreme più sono contenti, E di fatto si crea una stagione irripetibile, la stagione che scopre Meryl Streep, che scopre tutta la serie De Niro, appunto, poi Nicholson qui, insomma, anche una generazione di attori che viene totalmente scoperta. Al Pacino nasce col Padrino, insomma, è tutto un corpo unico che si muove come una macchina e di fatto cambia tutto quanto, cambia il modo in cui noi pensiamo un certo tipo di cinema, unendo sia spettacolarità che roba intellettuale. Questi film poi vincevano. E il massimo, la punta, arriva in un film che alla fine, mi sembra di aver capito, non mettiamo perché mettiamo questo. Qua sono collegati, che è Apocalypse Now. Possiamo fare quello che vogliamo. Infatti pure è vero. Se il tempo ce lo permette. La punta di tutto questo arriva con Apocalypse Now. Perché Coppola è pieno di soldi. È totalmente a carta bianca oltre ogni dire. È pieno di denaro. Lo spreca tutto perché si drogano tutti, dal primo all'ultimo. Alla fine gira il film tra mille difficoltà. Va in Cambogia per girare il finale, che lui fingeva fosse Vietnam, in realtà era Cambogia. Va in Cambogia per girare il finale e comincia a investire i soldi propri che aveva guadagnato, finendo quasi sul lastrico, perché rimane lì 3 mesi invece che una settimana, perché non aveva il finale. Convocando appunto Dennis Hopper, che ha un ruolo nel film, che era lo spacciatore ufficiale di Hollywood, per cui porta lì una valanga di droga e rischia sul serio di diventare matto, di lasciare la moglie, di sfondare la sua famiglia. Aveva detto a Marlon Brando di arrivare magro, arriva grasso, cioè di tutto è successo. Quel film veramente lo stava facendo impazzire, se non fosse che poi ha guadagnato un pacco di soldi. Però appunto è la punta massima di tutto questo, cioè di questa gente strafatta, a cui gli lasci carta bianca, che riempi i soldi e possono fare quello che vuole. Esatto, e comincia il delirio. Esatto, certo. E comincia il delirio. Poi Apocalypse Now è venuto stupendo lo stesso, però insomma si capisce che quel sistema produttivo comincia a mettere paura ai produttori. Dice, se tutti, mo questo ci siamo rientrati, però non può essere un modello di business questa cosa. Comunque. Comunque la colonna sonora di Easy Rider è notevole, no? Perché molto notevole, Steppenwolf, esatto. Birds, noi vabbè in questo caso abbiamo scelto Creedence Clearwater Revival con Fortunate Son. Ooh, I want the cannon.

travel where you take it up. E sempre di comune accordo decidiamo di sfumare The End. Sacrilegio, sacrilegio, non ce ne vogliono gli ascoltatori, ma insomma dura altri 6 minuti, direi che non è il caso. Abbiamo una trasmissione piena, piena zeppa. Abbiamo cose da dire. Cose da dire, eh? Tra l'altro ci scrivono, suggeriscono, ti esatto, chiedevano esatto. Questa cosa di Clint Eastwood, che però mi stai dicendo una mezza balla. No, è un'espressione. Esatto, no, di là. Leggo il messaggio. Sì, sì. Dunque, ha due espressioni, una col cappello e una senza. Sì, che era una cosa che si diceva che Leone dicesse questa cosa di Clint Eastwood. Ed è in effetti anche io la prima volta che l'ho sentita questa cosa, era così, che Leone diceva di Eastwood questa cosa. In realtà poi, andando avanti negli anni e occupandomi di queste cose, ho letto su pubblicazioni anche straniere, insomma... Ho detto che in realtà c'è chi attribuisce questa frase a John Ford, che lo diceva di John Wayne, e c'è ancora prima chi l'attribuisce a Ernst Lubitsch, che lo diceva di Gary Cooper. Vabbè, quindi possiamo dire che è una leggenda metropolitana. Sì, no, è una cosa che ciclicamente ritorna questa cosa, e credo che in Italia sia la più famosa, sia appunto la versione che coinvolge Leone e Eastwood per ovvi motivi. Però forse all'estero no, dovrei assicurarmi di qual è la versione più famosa. E invece no, un'altra persona poi ci ricordava tra le grandi colonne sonore, che è vero, l'abbiamo colpevolmente trascurata, quella di Un lupo mannaro americano a Londra, perché Landis è un malatissimo anche lui di musica, e uno poi con che gli piace andare a scavare, a trovare le cosettine di canzoni vecchie, brani vecchi, e in effetti diceva l'ascoltatore che il Blue Moon c'è in ben 3 versioni, che è verissimo, c'è quella originale di Bobby Vinton, quella di Sam Cooke, questo è il genio di Landis, che mette quella di Sam Cooke, che è quella più, più tranquilla, più carina, più pacifica, la mette quando c'è la prima trasformazione, uno dei momenti più duri, mette questo giradischi che manda un brano tranquillissimo, molto soft, mentre lui per la prima volta, urlando come un ossesso perché si sente il dolore in quel momento, si trasforma in lupo mannaro, e poi chiude con quella dei Marcells, che è quella più, più potente, più rockettara. Ma non solo, poi in realtà nel film ci sono altri due brani che lui ha scelto probabilmente perché sicuramente perché gli piacevano, ma poi perché hanno la luna nel titolo, che sono Moon Dance di Van Morrison e Bad Moon Rising dei Clean Skillwater Revival, e certo. Sono quelle cose proprio da John Landis, che solamente un grandissimo come lui gli vengono, può permettersi queste cretinate, di fare le cretinate vengono bene, anzi fanno bene al film. Oh, invece non potevamo trascurare Kubrick. Beh, e anche lì la scelta difficile da trascurare, dai. Anche se parliamo ancora di guerra, Full Metal Jacket, film dell'87, un film di guerra chiaramente, però ambientato prima, perché molto il Vietnam prima, esatto, sì, quindi è fine anni 60, durante appunto la guerra del tra 67 e 68, quindi la storia di Joker e palla di lardo, la bella storia di... la parabola felice di Joker e palla di lardo, bellissimo, uno dei miei film preferiti. Capisco che preferito? Uno dei sicuramente, cioè molto, diciamo, sai, poi quando fai il lavoro mio, come non so, per te o Faster, quando si parla di musica, sono talmente tanti i dischi o i film che è difficile dire il preferito. A questo punto interviene, anche quelli che ti piacciono sono talmente tanti, interviene poi che ruolo ha giocato questo film nella tua vita, semplicemente, no? In che momento è arrivato, che sì, cosa è. Sì, sì, è vero. Per cui hai dei film del cuore che sono molto, sono belli, che appartengono al pantheon di quelli che piacciono a tutti, perché chi è che non piace Full Metal Jacket? Però magari sono particolarmente importanti per te, l'hai visti un numero particolare, sì, di volte. Oppure si cambia, a me capita questo. Sì? Se magari quello che ti piaceva 3 anni fa, no vabbè, facciamo 5-10 anni fa, mm-hmm, con la vecchiaia invecchiando, poi magari lo rivedi. Magari preferisci a me qualcosina. Mi è capitato qualche volta, mi succede spesso. Però mi capita solo in positivo, cioè mi capita solamente che qualcosa che non mi piaceva, poi invece scopro, invece era proprio bello, sono veramente un deficiente che non mi piaceva. No, Full Metal Jacket sì, è veramente uno dei film che conosco meglio, lo conosco veramente a memoria, e diciamo nel percorso che stavamo disegnando arriva negli anni 80 chiaramente, ma è anche una scusa per parlare di Kubrick e del rapporto anche lui straordinario che aveva con la musica. Innanzitutto lui non, quasi nessun film, a parte i primissimi in cui sperimentava, faceva cose personali, insomma non le faceva in maniera veramente professionale, ma erano cose più o meno amatoriali, come Fear and Desire, cioè Passione e Desiderio, che è stato rimesso l'altro giorno al cinema. Sì, quindi, infatti ne parlavamo, esatto, del fatto esatto. Lui lo odiava. Sì, esatto, lo odiava, lo riteneva un film, adesso ne parliamo brevemente, lo riteneva un film, uno schifo, insomma, un film di un ragazzino, un esperimento non riuscito, ed era talmente poi perfezionista, talmente maniaco, che da quasi subito dopo, cioè quando cominciò a essere un pochino importante, cominciò a trattare con la Warner, che aveva i diritti del film, per distruggerlo, e ci mise degli anni per riuscire a convincere la Warner non solo a non distribuirlo più, ma a distruggerlo, e seguì addirittura, quindi lo odiava proprio. Seguì personalmente la macerazione della pellicola. Vabbè, questa è paranoia. Sì, sì, è paranoia, perché non voglio che lo veda mai nessuno, perché questa cosa è fatta di schifo e porta il mio nome. Chiaramente non è fatto di schifo. Per il non poco è... budget, poi, no? Sì, però no. No, perché era immatura, aveva 24 anni, era il primo film che faceva. Ma la cosa bella che mi fa impazzire di questo racconto è che quando le cose diventano pubbliche, è una cosa che poi si applica molto adesso ai tempi di internet, quando le cose diventano pubbliche ti sfuggono di mano, anche quando non c'era internet, ti sfuggono di mano, perché lui lo fa distruggere, lo fa bruciare, ma c'era un Film Institute, queste associazioni che richiedono le pizze, che ne aveva acquistato una pizza tanto tempo prima, per cui era sua, cioè ne aveva una copia, era sua, quindi Kubrick non aveva potere, perché me la sono comprata, ci faccio quello che voglio, giustamente, e ha cominciato a farla circolare clandestinamente, solo che faceva schifo perché era, si chiama il positivo, cioè come per la macchina fotografica, il negativo non è la foto, no, è quella cosa che tu mettevi nella macchina fotografica, sì, quando era analogica, sì. E se la guardi ha tutti i colori sbagliati, no, il negativo al contrario, esattamente. Negativo, sì. Devi fare lo sviluppo, diventa positivo, ed è quello che puoi proiettare o puoi farci le foto nel caso della macchina fotografica, uguale per i film, il negativo è uno solo, i positivi sono tanti, sono le pizze che mandi in giro, per cui Kubrick fa fatto distruggere il negativo per dire abbiamo chiuso, distrutto l'originale, basta, ma qualcuno aveva il positivo, invece no, il problema del positivo, cioè di avere una copia, è che quando fai i restauri in realtà parti dal negativo, il positivo è uno schifo, cioè si deteriora, intanto è che Fear and Desire ha girato in maniera clandestina nelle videoteche con i VHS-acci terribili e anche i primi esordi di internet sui circuiti illegali in una copia che fa veramente schifo, ma veramente, cioè che non si distinguono i volti, per dire. Esatto, terribile. Recentemente, cioè da quando è morto, si è cominciato a lavorare con gli eredi, che ci tenevano a far rispettare la sua volontà che non si facesse niente. Però, insomma, a furia di lavorare, ci sono riusciti. Hanno potuto ottenere questo positivo e fare un mega restauro, un lavorone pazzesco. Per cui adesso la versione Blu-ray, che è quella che passa al cinema e esce anche in Blu-ray adesso, è perfetta. È perfetta e non si è mai visto così questo film, se non quando è uscito, perché poi Kubrick l'ha bloccato. E qui ognuno prende la sua decisione, nel senso, è giusto fare quello che lui ha tanto voluto per tutta la sua vita e non vederlo, non ne sarebbe molto felice, esatto, oppure vederlo perché ok tu non lo volevi, però questo è un capolavoro, è io Kubrick, me ne frego, Kubrick, e io me ne frego, Kubrick, e quindi va visto, detto questo, ultima cosa, la vera sorpresa, verissima sorpresa di vedere questo film è che ci aveva ragione Kubrick, è orrendo. No, è un film che ha tante intuizioni, è veramente, se pensi che degli anni 50 e che lui aveva 24 anni, è impressionante, perché ha una serie di intuizioni incredibili, ma è un film che nel suo complesso è terribile, è noiosissimo. No. Il montaggio lo faceva lui, è montato coi piedi, perché voleva sperimentare, ma non si capisce niente. Anche la sceneggiatura, che non è scritta da lui, però è terribile, insomma, è raffazzonata. C'è quei film che dice, ma sto film quando va avanti? Non la faccio più. Cioè, è proprio un film, come diceva lui, pieno di cose fatte... Di imperfezioni, esatto. Un po' grezze. Ha di bellissimo la fotografia, perché lui nasceva fotografo, faceva già le foto, e quindi a un certo punto tu capisci che le singole scene, per risolvere una scena vuol dire, che ne so, c'è una violenza sessuale, per dire, che c'è nel film, come faccio a renderti l'idea che questa cosa è veramente violenta? Come faccio a trovare quella cosa che te ti farà capire che è violenta? Lo puoi fare, che ne so, per dire, con la recitazione, lo puoi fare con la musica, lo puoi fare col montaggio, puoi farlo in tante maniere diverse. E tu capisci che, vedendo il film, vedi che le cose, succedono ma non hanno una vera enfasi, fino a che a un certo punto non arriva un'immagine che sembra una foto, che dove i personaggi stanno fermi proprio, la macchina da presa sta ferma, i personaggi stanno fermi, quindi sembra una foto, che è straordinaria, è fantastica. Cioè, per esempio, adesso ho fatto questo esempio della violenza sessuale, questa scena non è granché, poi a un certo punto lui inquadra semplicemente le gambe del soldato, la gamba del soldato che si infila tra le gambe di lei, proprio con la gamba col ginocchio che si mette tra le due gambe di lei, con una certa violenza, con una certa insistenza, ed è un'immagine pazzesca. Cioè lì, ok, ho capito, è una cosa terribile, lo capisci solamente visivamente, che perché non è da tutti. Detto questo, il film non è granché. Non ci siamo persi nulla, che poi era programmato per un giorno, no? Se non sbaglio, tre giorni, 29, 30 e 31. Va bene, andiamo avanti in musica, dicevamo, Nancy Sinatra da Full Metal Jacket. You keep saying you got something. something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Oh, siamo arrivati al 1989. Ce la stiamo quasi facendo, esatto. Era il 2000, ce la faremo mai? Esatto. E sì, ci arrivavano altri messaggi praticamente relativi a quello di cui stavamo parlando prima. Dunque, ti chiedevano: Brando in Apocalypse Now litiga con Coppola per i soldi della scena aggiunta. Lui gli chiede tramite agente 1 milione al giorno per scene girate dopo la fine del film. Coppola accetta, ma non si parleranno mai più. Sì, sì, è questo vero. Non è tutto vero, perché chiaramente il rapporto era pessimo, non inizialmente. In realtà loro avevano un buon rapporto perché Brando aveva già fatto Il Padrino, quindi comunque si conosceva tutto quanto. Però, come ho detto prima, già il fatto che arrivi grasso, trovi l'inferno, lui troverà l'inferno Brando. Doveva venire una settimana, rimane 3 mesi, Coppola non lo vuole pagare, dopo gli deve fare causa perché è stato di più e non lo voleva pagare. Poi Brando chiedeva delle cifre senza senso, chiaramente. Poi è normale che si finisca così. Comunque, per chi volevo dire questa cosa, che chi volesse approfondire questa storia fenomenale del making di Apocalypse Now, che è veramente una cosa che ti insegna tanto, non tanto di cinema, ma di vita sulle persone, cioè sia il libro, sia il documentario chiamato Viaggio all'Inferno, di Eleanor Coppola, della moglie, che stava con lui là. Il libro, vabbè, è bellissimo. Il documentario ha delle immagini pazzesche di questa persona che si rovina, cioè che finisce sempre peggio, sta ufficialmente diventando pazzo, perché c'è un momento molto bello che riassume tutto, in cui lui dice: io, parlando in camera proprio, lo dice disperato, magro, dimagrito, dice: io volevo fare I Cannoni di Navarone, che era un film anni 50, sai, quei Colox all'anni 50, sì, molto, molto edulcorati, quindi per tutta la famiglia, no? Un po' il pettone. Esatto, volevo fare un filmone d'azione divertente, che si ridesse, una cosa per tutta la famiglia, che volevo fare i soldi, volevo fare i soldi. Ed è ed è, lo dice disperato, perché in realtà, come poi chi ha visto il film capisce, è finito in qualcosa che non controlla più, in un film intellettualissimo che lui è convinto che sarà un disastro, ma è convinto, cioè è impressionante quanto lui sia intimamente convinto di stare facendo, di essere in mezzo a una cosa che sarà un disastro, che lo rovinerà, che nessuno vedrà. È convinto al 100%. E alle volte, siccome io poi ci sono stato parecchio appresso a Apocalypse Now, ho letto il libro, ho visto il documentario, nella mia vita, nella vita di tutti, alle volte ti capita di dici: questa cosa che sto facendo è più grande di me, no? Ti capita. E io penso sempre a Coppola. Poi c'è anche una foto molto famosa di lui con una pistola finta, di quelle del set, che se la punta alla tempia. Ma è serio, questa pistola finta se la punta alla tempia. Ci ho pensato seriamente. Esatto. Io ci penso spessissimo, penso: vabbè, comunque lui ce l'ha fatta, che diavolo. Ce la posso fare anch'io. Sì, ce la potrò fare anch'io nel mio piccolo. Grande. No, invece dicevamo Spike Lee, alla base del quale, beh, io questo posso dire forse è il film più bello di Spike Lee, almeno a me è quello, beh, che sì, è piaciuto in assoluto di più. Sì, segui sì. La 25esima ora, che però apre tutta la fase, no, secondo, ultima di Spike Lee, sì, che sì, non c'entra che... più niente con quei film. Sì, mo un po' sì, più altro... Beh, sul razzismo, no. Sì, ne fa meno, cioè, ne fa anche tanti che non c'entrano, però ogni tanto ce lo piazza uno sul razzismo, perché sennò sta male. E, no, e alla base di questo c'è proprio un fatto di cronaca vera, no? La rivolta di Harlem, esatto. È avvenuta negli anni 40, l'uccisione da parte di 8 poliziotti bianchi di un uomo di colore, e la Howard Beach Incident, cioè il pestaggio di alcuni giovani italoamericani. E canzone, vabbè, bellissima, che abbiamo scelto, quella di Public Enemy. Una chicca poi che hai trovato tu. Sì, sì, allora io un'altra cosa su cui, su questa ci siamo molto trovati, perché sia a lei piaceva un sacco il pezzo dei Public Enemy, e io sto in una fissa mortale con quest'inizio, perché questo brano sta all'inizio di Fa la cosa giusta, ed è secondo me uno tra i più grandi attacchi di sempre, perché lui all'epoca, oggi non più purtroppo, però questo poi è normale quando c'è un'età, all'epoca era veramente un rivoluzionario, era veramente uno che faceva le cose in maniera completa, faceva quello che gli pareva, ed è veramente, a me mi inebriano tantissimo queste cose, e lui parte praticamente con un videoclip, cioè una cosa che non si faceva all'epoca, era l'89, figurati, anzi i videoclip erano ritenuti una cosaccia da MTV, capito, cioè li guardavano come per dire, ah, i videoclip, sto schifo, mentre invece lui parte veramente con un videoclip, con questo pezzo di Public Enemy, che è un po' modificato per il film, perché c'è Brandon Marsalis che suona il sax dentro il pezzo, e Rosie Perez, che è una delle protagoniste del film, che balla, ed è fantastico, lui gira uno dei più grandi videoclip di sempre, perché è veramente stupendo, e ha tutta una maniera particolare di relazionarsi col film, questa cosa, ma soprattutto la chicca ancora più grande è che solo nella versione del film, quindi quella che trovate nella colonna sonora ufficiale del film, il pezzo è preceduto da un brano di sax, da un brano di sax che teoricamente non c'entra niente col pezzo, dura 6 secondi, tipo adesso lo sentiremo, 6 secondi e poi partono i Public Enemy, che è una cosa che noi in Italia non conosciamo, perché veramente non appartiene alla nostra cultura, che si chiama Lift Every Voice and Sing, cioè è solo il tema, chiaramente noi sentiamo, poi il brano sarebbe più grande, che è ufficialmente l'inno nazionale negro, proprio negro c'è come scritto, l'inno nazionale negro, perché è una cosa che viene dall'era di Lincoln, sì, sì, sì. Ed è un brano che era gospel, è passato attraverso mille remake, addirittura pensa che è una poesia in realtà, che è stato musicato all'epoca di Lincoln, sempre, per cui anche le parole sarebbero molto importanti, ma qui c'è solo la melodia. Pensa che Obama stesso l'ha recitata poi, quando era già presidente, insomma è una cosa che si tramanda tantissimo ed è molto importante per il loro retaggio. Ora sappiamo la fissa che c'ha Spike Lee per il retaggio culturale, figuriamoci questo film, se si eccettuano esperimenti indipendenti tipo Sweet Badass di Melvin Van Peebles, è uno dei primissimi film a grosso budget, comunque che hanno ricevuto una grande eco, che ha girato, che ha fatto, ad essere totalmente fatto da neri, dal primo all'ultimo della crew. Questo sempre per dire la ragionevolezza di Spike Lee, la maniera in cui ragionava, in cui era radicale nelle sue scelte. Poi ci sta il grandissimo Torturro. Esatto, esatto. Che è bravissimo, anche lui ha gli esordi, no? Se non sì, sbaglio. più o meno. Semi esordi. Diciamo che all'epoca non faceva tutti questi film così grossi. C'è Samuel L. Jackson in uno dei primissimi ruoli, mm-hmm. E infatti che è piccolo pure il ruolo. Insomma, ce ne sono di attori di colore. E a me mi è sempre piaciuto un botto, che sia un inizio fichissimo, con un brano stupendo, che è piaciuto all'inno nazionale nero. E la cosa che mi fa impazzire è che lui non poteva saperlo prima che questo sarebbe stato il suo film più importante. È una cosa geniale che ci sia proprio in questo l'inno nazionale nero, ed è soprattutto stupendo, è un sax meraviglioso. Freedom of speech, it's freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight to rise. Desire to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got the pump to start to make it tough. From the heart it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we are the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? Have a loving, let's get down to business. Mental self-defense or fitness, the rest to show. You got the power for what you know. To make everybody see, in order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We got to fight the powers that be. Was a hero to most, but he never meant shit to me. Yes, he's straight out racist. The sucker was simple and plain. Motherfucking ninja, I'm playing. Cause I'm black and I'm proud. I'm ready, I'm hyped for some amp. Most of my heroes don't appear in no stamp. Sample, look back, you look and find nothing but rednecks for 400 years if you check. Don't worry, be happy. Was a number one champ. Damn, if I said you could slap me right here. Get it. Let's get this party started right. Right on. Come on. What we got to say? All to the people, no delay. Make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. Sure. Fight the power. Sure. Fight the power. Sure. Fight the power. We got to fight the powers that be. Public Enemy, quindi come detto, ci dobbiamo sbrigare, Gabriele. Siamo arrivati agli anni 90. Gli anni 90, aperti da Spike Lee, ma dominati con una violenza incredibile da Tarantino, chiaramente. Anche lui veramente ha cambiato il cinema negli anni 90, ma non parleremo di questo. Nella fattispecie di Pulp Fiction, perché esatto. Anche lì ci sarebbe, no? Anche lì Palma d'Oro, noi solo Palme d'Oro. Anche lì Palma d'Oro nel 94. Ci sarebbe da dire mille cose. C'è solo una cosa, diciamo, sul brano che mandiamo, sì. Che è Miss Lru, che è una cosa che non tutti sanno che. Non tutti sanno che questo brano, che lui ha usato e ha riportato a seconda fama, ed è un brano che da quel momento in poi, cioè questa è la forza del cinema che mi fa impazzire, che se tu fai una cosa fatta bene, se riesci a combinare davvero bene sonoro e immagini e a creare una narrazione davvero coinvolgente, cambi la percezione che le persone hanno di una cosa. Nel caso particolare Tarantino l'ha cambiato di mille cose, ma insomma nel caso particolare ha cambiato totalmente la percezione che noi abbiamo di questo brano. Cioè questo brano, per tutti quelli che diciamo avevano 10 anni nel 94, da lì in poi è un brano di gangster, cioè è un brano che rimanda a storiacce suburbane di gangster che si sparano. In realtà è stato uno dei brani cardine della cultura surf, cioè viene da tutt'altro mondo, era come dire legatissimo ad un altro mondo, ma è arrivato Tarantino e l'ha cambiato totalmente. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. We'll be right back. Per l'appunto era Miss Rude, la colonna sonora di Pulp Fiction. Abbiamo sentito anche all'inizio Tim Roth che parla all'inizio. Anche questo poi è un altro brano di inizio film. Sono quasi tutti quelli che abbiamo trovato sono da inizio film. Lì lo vediamo nel locale che si prepara a fare la rapina, che è un grande classico di Pulp Fiction, ovvero i gangster che fanno i gangster, che come se si dovessero immedesimare in un personaggio. E invece, per chiudere questa cosa, arrivati agli anni 2000, c'è uno dei film che dal punto di vista della colonna sonora è in assoluto tra i più importanti degli anni 2000, che è Into the Wild di Sean Penn, che è sempre strano dire Into the Wild di Sean Penn. Sì, in effetti uno dei pochissimi film che ha fatto da regista, però è rimasto moltissimo davvero molto per questa colonna sonora inusualmente coordinata con la storia vera di Alexander Supertramp e del suo viaggio attraverso l'America. Poi, tra l'altro, lui ha corteggiato i familiari, perché è una storia vera questa, mm-hmm, qua, no? Per 10 anni non glielo volevano far fare. Ah, questa film. Non la sapevo questa cosa. Sì, leggevo in rete che praticamente sì, lui voleva farlo, si era innamorato della storia di questo ragazzo, ma loro erano molto molto resti. Quindi quando stava per rinunciare, in pratica invece è arrivato l'ok. E via col film. E via col film. E possiamo dire che c'aveva ragione lui, il film è andato bene. Ha scoperto, tra l'altro, Emil Hirsch, che è partito con quel film, anche se è partito in mezzo film, nel senso che poi quello che ha fatto dopo ancora stenta a diventare veramente un attore, benché sia molto bravo, però stenta a diventare un attore veramente affermato. Non ha più ripetuto, non ha più avuto dei film, ecco, diciamo, a quel livello. Di quell'impatto. E direi pure, adesso non lo so, magari mi dimentico, ma è di vedere anche da quel momento in più, non ha più fatto qualcosa di meglio della colonna sonora di Into the Wild dopo Into the Wild. Cioè, insomma, non mi risulta che ci sia qualcosa di altrettanto apprezzato. Non credo che sia altrettanto apprezzato, no. Vabbè, comunque, questa è la colonna sonora, appunto. Brano è scelto per noi? No Ceiling, perché anche per rispetto per il nostro Tamagnini, perché insomma già abbiamo sforato di 2 minuti, quindi questo è brevissimo. Quindi e poi soprattutto a Tamagnini si deve sempre rispetto, esatto. E quindi lo ringraziamo per questi 3 minuti fregati, che diventeranno 4 con questo brano. E con questo vi salutiamo anche. Tu ci sei venerdì prossimo? Ma non si sa, io navigo sempre nell'incertezza, perché sono a disposizione di Faster, che manda messaggi e dispone di me in una maniera schifosa, per cui io sono così. E anch'io a questo punto, ho iniziato anch'io, quando Faster non c'è. Va bene, i rincalzi. Bene. Comunque, ci dovremo essere ancora per una diretta venerdì prossimo. E se non sbaglio, sarà anche nella fascia oraria, parte della fascia oraria tua, vero? 18-21, potrebbe essere qualcosa del genere. Quindi, buona serata, rimanete all'ascolto di Radio Città Aperta. Dopo di noi, Nerds Attack. Ciao, buona serata. Buona serata.